Pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera, ciao. Abbiamo al telefono Alessandra del Teatro dell'Oppressa e sì, l'abbiamo chiamata perché si sta per avvicinare appunto un weekend che vi coinvolge, che ci sembra molto molto interessante e che ci piacerebbe, prima che lo descriviamo noi, che ce lo raccontassi tu. Va benissimo, cercherò di essere piuttosto breve. No, vai. Noi facciamo le domande come se non sapessimo niente, come se non ci fosse arrivato nessun comunicato e null'altro. Quindi... Perfetto. Allora, il Festival di Teatro dell'Oppressa è un'iniziativa che è organizzata da Parteciparte, che si occupa di TDO, quindi di Teatro dell'Oppresso nell'accezione più generale, già da qualche anno qui a Roma, affrontando varie tematiche, tra cui appunto l'immigrazione, le questioni di genere e altre varie ed eventuali. Abbiamo deciso quest'anno di organizzare un festival di teatro dell'oppressa con la desinenza al femminile, soprattutto perché ci siamo resi conto che questo strumento del TDO, che è molto potente e molto funzionale a molte questioni, soprattutto di attivismo o di altra natura, in Italia, diciamo, non è utilizzato da chi si occupa prettamente di questioni di genere, dal femminismo a quant'altro, diciamo, o meglio, è utilizzato in maniera sottoutilizzato, ecco, possiamo dire così. E quindi, insomma, abbiamo deciso di farlo proprio noi qui a Roma, perché, diciamo, negando il dominio maschile che fin qui si è un po' esercitato, volente o nolente, su questa pratica, abbiamo cercato, insomma, col gruppo più femminile di Parteciparte di metterci, insomma, in gioco, in ballo. E quindi in queste tre giornate saremo ospitati dal centro sociale della SNIA in via Prenestina, quindi, insomma, loro ci hanno sempre appoggiato e ci ospitano molto volentieri, sia quando facciamo prove che quando facciamo spettacoli e quant'altro. Già l'anno scorso avevano ospitato il nostro primo festival di teatro dell'oppresso, però non c'era la desinenza femminile, e in questo caso abbiamo centrato proprio sia i workshop che i laboratori e gli spettacoli sulle tematiche di genere. Quindi ci saranno dei workshop il venerdì e il sabato, gestiti da Claudia Signoretti e da Olivier Marcor. Saranno due workshop che si svolgeranno il venerdì separatamente per uomini e donne. Quindi uomini e donne avranno modo di giocare e ragionare attraverso le tecniche del TDO, che utilizzano giochi e dinamiche molto, molto divertenti, su quelle che sono le questioni degli stereotipi che un po' ingabbiano sia gli uomini che le donne in tutta una serie di gabbie, tant'è che il workshop si chiama La gabbia del genere. Questi due workshop il sabato mattina saranno uniti, quindi maschi e femmine giocheranno insieme, dopo essersi scoperti un po' in maniera più privata e più protetta, si metteranno in gioco insieme su tutte queste questioni. E il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, ci sarà un ospite internazionale, che è Yale Karabek, che è una donna turca, un'attivista femminista turca, che è molto attiva soprattutto con le questioni curde, quindi, insomma, si occupa di questioni molto particolari, e farà una bella formazione corposa di 10 ore sempre sulle tematiche di genere. In più ospiteremo appunto tre spettacoli ogni sera. Ci sarà uno spettacolo di Teatro Forum, che è una forma particolare di teatro dell'oppresso, in cui viene rappresentato uno spettacolo in una forma molto breve, dopodiché seguito da un brevissimo dibattito, e si riparte con lo spettacolo, ma il pubblico può intervenire fino a salire sul palco e sostituirsi agli attori per provare a modificare, insomma, una scena che è stata messa in piazza e che però non finisce bene, insomma. Quindi è una palestra collettiva per esercitarsi ad affrontare una serie di questioni. Questi tre spettacoli saranno presentati, quello del venerdì, da Parteciparte stessa, quindi dal gruppo femminile, diciamo, di Parteciparte. Il sabato vengono delle ragazze dalla Spagna, da Barcellona, che affronteranno le questioni legate alle le famiglie non convenzionali, legate anche ai termini dell'omosessualità, e quindi cosa succede quando una famiglia con queste strutture si confronta con il mondo, diciamo, esterno. E lo spettacolo della domenica sarà del gruppo della Tuscia, che affronterà le questioni legate alla nascita e all'obbligo quasi imposto di partorire negli ospedali, e quindi cosa succede quando ci sono delle scelte diverse che la donna vuole gestire in autonomia rispetto alle dinamiche del parto. E questo più o meno credo di essere stata un programma densissimo, interessantissimo. Ci saranno anche incontri partecipati, insomma, sia di presentazioni di tavole rotonde. Verrà oltretutto venerdì sera, prima dello spettacolo, verso le 9:30, verrà presentato il rapporto della SIDAU sui diritti delle donne, che è il rapporto ombra che è stato stilato l'anno scorso e presentato anche al Parlamento italiano e alle Nazioni Unite, che è, insomma, il rapporto della società civile sui diritti delle donne e sulla verifica di quelli che sono i provvedimenti presi nel frattempo, su quelle che sono le richieste, insomma, degli stati internazionali su queste questioni. E non so di che cos'altro vi posso informare. Se è possibile ancora poter partecipare, la mail di contatto. Se... Allora, per quanto riguarda il workshop di cui abbiamo parlato, la gabbia del genere, quindi quello fatto di separato maschi e femmine del venerdì e sabato, in realtà stiamo chiudendo le iscrizioni per quanto riguarda quello femminile, che è molto partecipato, siamo arrivati quasi a 30 persone, e i maschi sono un pochino meno, quindi se c'è qualche uomo interessato a questa cosa, che si svolge appunto venerdì pomeriggio dalle 5 e la seconda parte il sabato mattina dalle 10 all'ora di pranzo, ci può contattare. La mail di contatto è teatro.oppressa@gmail.com. E più qualche possibilità in più, ancora posti disponibili per la formazione della nostra ospite turca Yale Karabekir, quindi sempre alla stessa mail detta prima, c'è qualche posto in più, maschi e femmine tutti insieme in questo caso. E comunque se andate sul sito di Parteciparte, che è www.parteciparte.com, potete trovare tutte le informazioni, eccetera. Quindi, a parte chi vuole partecipare ai workshop, siete tutti caldamente invitati a venire agli spettacoli. Il programma appunto lo troverete sul sito e vedrete, sono insomma tutti intorno alle 9:30-10 la sera, sia venerdì che sabato che domenica. Gli spettacoli sono ad entrata libera, uscita diciamo a cappello, quindi tutta questa cosa è tutta autogestita, autofinanziata, quindi insomma ce la stiamo cavando con le nostre sole forze, con l'aiuto anche della SNIA. Ottimo. Ottimo. Senti, ti volevo... Mi senti? Sì. Sì, ti sento. Sì. Non so se fosse aperto il microfono. Ti volevo fare una domanda, perché mi incuriosisce molto questo laboratorio, la gabbia di genere, poi delle donne che hanno partecipato in passato mi hanno parlato in realtà veramente con termini entusiastici di questi gruppi, ma più o meno cosa si fa? Loro mi hanno parlato un po' anche di riconoscimento della violenza, di provare anche un po' ad affrontare il conflitto, quindi riuscire a riprendersi i propri spazi, è più o meno una cosa così oppure... Esatto, cioè ovviamente il teatro dell'oppresso, come può suggerire la definizione, si applica, diciamo, e viene utilizzato in tutte le dimensioni in cui ci sono situazioni di oppressione, quindi può essere dall'oppressione nel mondo del lavoro riferita a una situazione appunto particolare nelle questioni di genere ancora di più. E in questo caso, per questo workshop, abbiamo riconosciuto che parte dell'oppressione c'è un pochino imposta da quelli che sono, insomma, diciamo, gli stereotipi imposti a vario livello, dai media, anche dalle educazioni interne alle famiglie, che probabilmente si portano dietro anche degli schemi ancestrali. E quindi questi credo che sia, insomma, credo, anzi siamo convinti che, perché lo viviamo sulla nostra pelle, che sia uomini che donne spesso sono portati o sono ingabbiati in delle situazioni che francamente credo che si trovino stretti un po' tutti. E, diciamo che i laboratori di teatro dell'oppresso hanno una parte molto giocosa, anche di demeccanizzazione per facilitare l'espressione, che è soprattutto corporea. Ovviamente si chiama teatro perché si arriva comunque a una forma teatrale ed estetica finale, ovviamente. Ciò non presuppone di avere una qualunque preparazione teatrale pregressa, perché la parte centrale, il nocciolo del teatro dell'oppresso, è che ognuno di noi è in realtà capace e portatore di teatralità e soprattutto di istanze proprie. E ciò a cui noi, soprattutto il gruppo di Parteciparte, puntiamo, che è comunque una delle istanze del teatro dell'oppresso, è quello di cercare di collettivizzare al massimo, quindi non sono problematiche personali intese nel senso più, certo, diciamo, psicologico della, dell'accezione, ma sono questioni che possono collettivamente essere riconosciute come effettive, quindi diciamo, problemi reali, e quindi collettivamente con una serie di giochi, esercizi, teatro immagine, insomma tante varie tecniche, e poi insomma dal singolo alla collettività si arriva a ragionare tutti insieme su queste questioni, e si arriva anche diciamo attraverso l'immagine. La comunicazione è paradossalmente più rapida che non attraverso i mezzi verbali, che spesso rischiano di dilungarsi un po' troppo, ecco. Quindi è uno strumento di grande immediatezza, di grande facilità, permette delle espressività insospettabili all'inizio, e poi insomma diciamo gli spettacoli finali sono sempre molto molto partecipati e divertenti. Sono molto curiosa, sono molto curiosa di vedere lo spettacolo finale, perché noi vi aspettiamo tutti. Appunto, è pensare a quando le donne si mettono in gioco, il riconoscimento della violenza, però il lavoro che viene fatto dall'altra parte, quindi diciamo la parte maschile, il riconoscimento della violenza, dell'agire violenza, se nel caso c'è una presa di coscienza, certo, e poi messo in atto insieme, deve essere una cosa molto forte, cioè me lo immagino molto forte. Sì, diciamo che in questo caso in particolare noi cerchiamo, ovviamente c'è un tema conduttore, però poi le tematiche che emergono sono quelle che vengono dal gruppo, quindi le persone che saranno presenti saranno loro ad individuare le emergenze che richiedono più urgenti in questo momento, quindi possono uscire ovviamente, spesso ovviamente succede, le questioni legate alla violenza specifica di genere, più possono uscire anche questioni legate più agli stereotipi, alle immagini nei media o altre questioni, insomma, quindi diciamo che la casistica è vasta. Insomma, l'unico modo di scoprirlo è venire là, sì, e fare assolutamente, assolutamente. Quindi vabbè, l'invito è dall'11 al 13 maggio. Dall'11 al 13, adesso praticamente, alla fine settimana. Va vi bene, aspettiamo. Ti ringrazio, ciao. Grazie a voi, ciao, grazie.